No, non mi interessa. Adesso che... Certo, 80 euro. Ha detto, a te danno 80 euro, danno 3, mi pare 80 euro. Io ma per 80 euro devo fare di servizio. Mi riempio di servizio. Ma tu gira a ripidare ieri, no? A ritirare un esito. Tu li vedevi questi qui, donne tutte erano, cazzo, ma lì stavano da repro, gentilissime, cazzo, guarda, e poi stavano bene lì, lavorando lì. Magari la baga è che non andasse bene, li bagaranno come te voi, ma stessi. E quelle sono la villa, una villa... Sono la Vigipol quelli lì. Lo vedi al Conti? No, è la secca bianca, ero. È la Vigipol. Quelli sono poterati, prendono 5 euro lo stesso. Forse qualche cosa in meno. Gesù, Gesù. Già che sul travaglio che si vendi tu, non è portierato. Gesù. Vai, l'avevi mandata a fanculo, mi era cazzo sotto un altro, mi era andato e se mi erano andata a fanculo, vedi. Infatti l'ho già detto, il lavoro che stanno facendo loro non è porterato, perché non è porterato. Io ho fatto il lavoro, guardia giurata su a Milano, e so come funzionano, e se cali a Domurdo. Perché questo qua, il portierato, deve fare dalle 6 fino alle 2 e mezza, no, fino alle 5 e mezza, poi dalle 5 e mezza in poi subentra la guardia armata. Ehi, dovrebbero fare orari di ufficio il portierato, quando danca l'ufficio danca niente. Glielo ho detto, si è cagliato, che lo sabbia, che queste cose lo sapevo io com'era. Che è sbotterato, guarda che è sbotterato. Sì, la domani, venerdì sono dalle 10 e mezza fino alle 6 e mezza del domani. Cazzo è sbotterato questo. Gesù, cazzo. Già, ti sono fatti i bombe duri. Cazzo. Andai così poi per quei soldi uno cazzo deve pure mangiare, cazzo non lo so, qui un vicino non vici niente, è così, è Natale, cosa devi fare, non ci vai, cazzo già ti faccio le cose a baga, non vanno, è una qualche cosa biblica. Lo stai facendo proprio per quello, se no non è lavoro da fare, no? Oh, tu ti lamentendi, ti so, cazzo, mi so prendi poco di cosa in continenti, anche in continenti sono la matessi cosa, cazzo, però qua al sud sono più sfruttati pure. E cazzo non è peggio, qui è peggio, almeno su, dove lo io, sì, si è pagato, guarda io ti sto parlando di... 15 anni fa ero lì alla Sicuritalia io e mi ricordo che ne facevo di ore, perché ne facevo, mi facevo 15-16 ore e mi vazio. Cazzo prendevo la bellezza di 1.800, a volte arrivavo a 2.000 euro, ma però vedi, c'avevo la testa sciolta. Sì, con tutti gli suri di Aerogrill. Che ti dice Giuliano Gabu, che se di no, non fa, io adesso, qua è entrato un amico mio, e tramite incursi, perché tramite incursi, a chiave se non va in corsi non entra, gli hanno fatto il decreto, tutto quanto, adesso deve fare il giuramento, e poi quando ha fatto il giuramento dovrebbe entrare per i primi di agosto. E infatti, devo avere in corsi. Io avevo tentato di entrare mi lo stesso, non vi so com'è ridicito. Proprio, ma usano proprio i rincorsi. Adesso è tutto da... Vedrai, vedrai con questi problemi qua, vedrai che assumo anche senza incubo, vedrai. Infatti, cazzo hai fruttati, sì. Cazzo fa che su chi su sei venditi, sì, gli assumeranno senza incuti. Una ditta seria invece, ma la Giucci, non vi dici la cosa di curia rincorso, vai forse. Ah, se mi so qui, abbiamo già vado, hanno imbrigato un pakistano, pensa tu, che non comprende un cazzo di italiano. L'ha pigliato il cazzo da posto, che combinata a polenta a fare, che combinata a lamento, che non si abbia niente nei sci. Cazzo, l'ha detto, devi fare 10 ore. Cazzo ha pigliato il caragato, ho scoperto lo svizzero e se ne è andato a casa. Prima di Zuri. E anda dove pure non l'ha cotto che ci cada. Anche se pakistani andano di gucce tu bebbi. Ah, cazzo del Gesù, ma è tutta marmaglia che prende, per carità. Solo Mondesa può prendere, anzi solo gente di Mondesa può assumere. E infatti. Ci suggeri. No, è un lavoraccio qua, sinceramente è un lavoraccio di merda, è di merda. Poi sapendo che si è pagato proprio terra a terra, vai a lavorare e cazzeggiare con le palle all'aria. Sì, sì, non te ne vieni cane, ma cosa... non sei soddisfatto, capito? E lui dico che uno è scoglionato già andando a fare quel lavoro lì. Ah. Ma quando mai se non se ne va a tenere la vagogna, boh. Pure per il nome della ditta, capito? Se ne devono fare la vergogna, cazzo. Invece ti do approfittatori e basta. E adesso ne stanno i campeggi, no? Che bisogna andare a fare 10 giorni per uno. Ha detto a me non mi devi zeccare, a chi non vado. A chi io vado, basta lavorare, vado per lavorare per avere qualche cosa in tasca, non per smanarmi. O per grazie all'unguro a te. Sì, infatti, non viene andato, no? Cazzo, l'anno passato 22 di maggio ho fatto, per carità, faccio smanando. Cazzo, una margherita a 15 euro, dimmi tu, un caffè 2,50 euro. Sì, cazzo, nelle zone così la roba aumenta. Prova ad andare a Costa Smeralda, vediamo tutti quasi di pagare la roba. E io vedo lì vicino, non è che c'è un balassaio. Infatti, è tutto più caro costa. Ah, non fa. Oh, yeah. Se la gente che mi dice, ma non è di fare cosa, fa una cosa. Vedete la fame di voi, il ballo di centramento. Che più guadagno più cammina a casa che a travagliare lì. Sì, infatti. Cazzo, pure la disoccupazione guadagni di più. Infatti io 2 anni mi aspettano, perché io ho passato i 50 anni, a me mi aspetta 2 anni di disoccupazione. E allora fatti il centiaca. Ma dimmi tu, cazzo. Non pare vero, a raccontarlo non pare vero, cazzo. Non ci tengono proprio questi. Gli interessa sfruttare la gente boh. Chissà quanti soldi si incassano qui. Un bel di là. A te te ne danno 40, sia che giorno sia che notte. Loro minimo si guadagnano con le 100-120 euro a testa, su ognuno di noi. Fate un conto e si guadagna. Ma chi ci vuole molti? Sono ladri giovissi. Ehi, Tore, buonasera. Buonasera anche a voi. Ciao Tore, buonasera. A Talino, ai. Ai, Tore, caro. Vabbè, passate per dolori. E a forza di Maragana, ma non gli è nato una bacchiglia e già ne è passato. Cazzo, ci mandano a pulirci. Visto là che ti hanno voluto bene. Sì, via. È così, Manuele, non vi può far nulla, è meglio fatemi a casa. Che Natale si è ingrassato in un culo. E sto aspettando che mi dice di andare al campeggio anche quest'anno. E gli dico, inizia da che mani culo, da la bacca più grossa alla bacca più lunga. A tirare disoccupazione che è meglio, ah, manco un 7 mesi di Robindi. 7 mesi? 2 anni ti tocca. Devi fare 2 anni per prenderti la disoccupazione. No, ti tocca 2 anni di disoccupazione, passati 50 anni, ti tocca 2 anni. Oh, così è. No, perché io quando li ho fatti a 3, 6, 9 mesi. No, adesso è già maduro, 2 anni adesso. Per quelli che sono più piccoli, te ne danno 6, 7, dipende da quanto ci lavorano. Allora te ne danno 7 o 1 anno. Perché se ci sei 2 anni, io ci sono quasi 2 anni. Io facendo la disoccupazione, passati 50 anni mi aspettano 2 anni di cose. 2 anni di disoccupazione, andare allora. Sì, ma adesso vediamo. Se acciappo che mi chiamano in un'altra vigilanza, vediamo un po'. Perché io l'ho trovata sinceramente, ma mi volevano a Olbia. Cazzo, ma a Olbia non è facile, a viaggiare, ma che cazzo faccio, ma stiamo scherzando. Se la sta tassata sarebbe un altro discorso. Audia ti devi giocare l'oggettivo, ti devi giocare. No, ci vuole tutto lo stipendio in civi. Appunto, se mi prendo la casa lì, minimo 500 euro, solo un buco di casa. Cazzo, devi mangiare, e allora, cazzo, quello che prendi ci rimetti lì. E cosa andrà fatta a fare a Audia? Non compri nemmeno, non compri. Non deve neanche andarci lì. Papà, te Natalino! Ah, Istone, quando fai così ti temo. Cazzo, se metti in me così, ui. Ma te l'immagini a questo attore, Emanuele? Mi ormai te, Istone, la vecchiaia si sta ribellando, La vecchiaia dei cammelli. Tu, signore. Questi soldi li cambiamo, to, questi soldi che hai preso. Della pensione. Ah, vedi che non hai fatto il duro, si è rapito dalla moglie un po'. Soldi della moglie un po', ah! Ma come se ne vedessi? Cazzo, la moglie c'ha male. Se si amare bene le venne, non se ne impazzina, va. Perché tanto non ripone in pendia che sono segnati. Cosa segnati? Dammo fuori, quelli non sono segnati. Quelli erano nel cavù, erano puliti. Non erano macchiati. Nelle banche li segnano. No, non nel cavù di quelli là. Che c'erano i puliti davvero. Quelli quando escono dalle banche, dai negozi, sono già segnati, hai capito? Quando arrivano nel primo cavù, anche se loro li hanno presi, devi ne agitare perché tanto la matricola, no, come spendono, la matricola c'è. Quelli che prendi dalle banche sono segnati, e buh. Chi si vedono in chi su cavù e danno i buriti di là. E se pure di un negozio sono segnati, non ti preoccupare, pure dei supermercati li segnano. Ma, Io penso così, poi loro devono vedere. Devono vedere se è così, cioè così. Chi se ci sono rimasti in terra le dirà. Loro lo vedranno. Non ho detto nulla delle. Non ho detto delle mazzette che c'erano in terra e basta. Cosa ne dici, Emanuele? Cos'è una carica? Cosa ne dici, Emanuele? Secondo me erano i puriti che ci dirà. Per me erano puliti, quei soldi lì erano puliti, non erano segnati. Quelli erano soldi già a portare nei negozi per fare le aperture. comprano soldi anche per portare alle poste, hai compreso? Non soldi a portare alle poste, perché erano per i pensionati. Appunto, non sono segnati quelli, quelli non sono segnati. E poi non li hanno manco toccati quelli delle poste, hanno preso solo quelli che c'erano fuori. Vidi dentro al capo, non hanno i buddhi di Ducà, hanno invigliato solo chi si vede ne vola. Mesi milioni di euro si stanno buttando, cazzo. No, 20 milioni hanno detto. Ah, io sono di 10, poi si erano i 20. Oh, un bel di sacchi erano i 20, 10 sacchi di rumangime, ne hanno cantati con i cavatori, cazzo, si erano rampati dentro al furgone, che ne hanno cavato la camicciuria al furgone. Un po' che fa aspetta, non vuole buttare il buone sotto i rudi. Si mette l'immaginese, in gurdi, cazzo. La carità, cazzo. Ma tu ti devi rimanere qua, di pure. Perché nello scappatoio penso che hanno usato, non hanno usato guanti e cose. Poi non lo so, nel camion penso non hanno usato guanti. Ma lo danno l'hanno usato? Il camion, gli hanno regato un coso, non l'hanno bruciato, l'ha servito in treno. Ma io non mi sembra che l'hanno bruciato il camion, quando hanno lasciato il furgone, mi sembra che l'hanno bruciato. Hanno bruciato, ma non il camion e lo scappatore. Lo scappatore no, ma io sapevo che il furgone o il camion l'avevano bruciato. Il camion no, che si è visto giù, il camion con il rimorchio dove si è sceso lo scappatore. Quindi è stato l'impronta, ha acciappato la ciappani, gli è segnato chi sulla ciappani. E che è impronta? Si erano tutti i cazzi incappucciati, non avevano in poco guardi, cosa è impronta? E non li rilassano in pronte. Se non la ciappano più a chi si sono professionisti, hanno fatto un colpo da maestro, chissà da quanto tempo lo stavano studiando, non lo vedi che quelli sono professionisti? E si muri a culo, non ne ha fuzzato nulla, hanno imparato altezza d'uomo, hanno sparato, hanno buccato il parabrezza della macchina dei carabinieri, mi blindato, beh, l'ha passato un matese, vuol dire, va vieni, chi si proiettili i russi. Io penso che siano ancora zicchelli, non ti preoccupare, non ci pensi. Chi sono zicchelli sono zicchelli? Ma che acciappa, non acciappano nessuno, che non hanno indagato nessuna cosa, chi c'erano i professionisti, non so cosa vuol dire professionisti, che tracce non ne hanno lasciato a nessuno. Non lo so, no. Non lo so. Senti, non hai visto un video, hanno fatto un video, che vedi anche con una panda, cazzo, ed era lì lui, hanno visto anche con un vetro, ha visto nelle saette, gira, gira, gira, quando ci spara, gira! Ed è uno girava. Hanno fatto un video su TikTok, l'hanno fatto un video. No, io non l'ho visto, la verità. Se crepava qualcuno a quelli non gliela fregava un cazzo, sparavano in buco. Sì, ma non volevano fare del male a nessuno, ma si vedeva, perché se volevano sparare a qualcuno l'abbiamo gli ha fatto. E non era prima che arrivati nella Mondial Porno, ne è arrivato pure un'altra di rapina. E già cioè, è passato 6 mesi dalla rapina di prima. Sì, magari hanno finito i contanti e sono tornati a fare un prelievo. Ah, si sarà quei 6 mesi. Mi pare che magari saranno a farne altri 6 mesi. Ma vedo cosa soffende il muro e in cosa, in calcio è strutto. Sì, sia che non era Napoli, cavalori. Non era una pregussia, va. Ma fate ne animate, più bella se ne animate. Hanno fatto lo sciopero, hanno fatto, sono in sciopero giù. Già lo so, hanno fatto vedere quelli dell'assessore delle guardie giurate, dice che non si può lavorare così a rischio per poco. E infatti stavamo parlando anche per quello. cambiare le cose, stavano dicendo anche, come si chiama, cambiare la... Perché in continente si ho pagato un bel di più, e non che ho pagato un po', cosa. Allora vogliamo fare come fanno in continente. Con la rivoltella, Andy, o con l'M12. Cazzo, lì ci vanno i Lukalashnikov. Ma madre va via nei rifugiati a Cosumi, perché si appompa. E cosa cazzo li fai con i rifugiati a pompa? Quelli c'hanno il mitra. Vabbè, c'è il mitra, ma il rifugiati a pompa entra e fa il rubucumi. Ma non fa di... lo danno che fa di... lo Galashnikov, no? La palla si schiaccia, non buca neanche, io penso. Il fucile a pompa fa danno a distanza breve, capito? Ma no, non c'è confronto qua, non puoi fare nulla a un ghisi. Non so, con chi si hanno imparato, con il blindato, cosa che si hanno imparato, con il fucile a pompa. La macchina che va via un bel comando, va via. Ma quel parabrezza blindato che c'hanno i carabinieri, il fucile a pompa non lo passano. L'hanno passato perché c'avevano il calasnico, vai capito. Il fucile a pompa ce l'ho anche io, mi. E so cosa puoi fare. Ma no, vai confronto, no, non si buca. Quelle armi che avevano qui, lì poi le sapevano anche usare. No, io sto dicendo, la macchina hanno sparato con la macchina lì, mi pare che non so che macchina era, ha fatto un buco, una rovretura ha fatto, perché non era, era petro normale. Anche se non hai fatto un buco, faccio mai mi cavano in uno. Qua, questi carabinieri che vengono e diventa questa macchina, devi venire a contare la bauna, chissà, mi so sai per i bambiracoli. Perché erano blindati, erano, ecco perché, non hai fatto nulla, erano blindati le macchine, se no avevi visto cosa avevi fatto. Chi so che ti senti che l'ha buccato, lo vedo blindato, l'ha buccato, mi. Non l'ho visto quello, ho visto tre cose, però il buco non l'ho visto. In basso l'ha buccato, perché lo stavano dicendo oggi su internet, un esperto proprio, compreso. L'ha buccato, non ha resistito, no, al Kalashnikov, quel vetro blindato. Chi ha resistito è... il vetro di quell'altana dove c'era la guardia giurata, quello lì sì, ma è più grosso, cazzo, e a rumettarlo, la Bedu Rashadu, allora vedi che hanno l'anima in acciaio quei proiettili russi. Certo, non so saputo fare come si deve. Ma va, bisogna vedere, so, si scende, piano piano. E sono andati a Conso, a vicino a Conso, a Nuoro, dal paese, a Gabui. Cercano in casa a casa. Sì, già la cerchi domani, chissà un disso, chissà, e chissà di un disso, secondo me hanno una preparazione militare quella gente lì, secondo me sono ex militari quelli. Ma non lo so, però chi sono andati in corso a allenarsi. Ah, non ne so io, no. Io sono così un ragazzo che l'hanno studiato da me. Dall'altra rapina qua sono... quanto è? 8 anni o 6 anni? Cos'è o Alcotto? Dall'altra rapina che avevano fatto... cosa era? 6 anni o 8 anni? Cosa è lì? Ma te si chiedi? Ma mi fatto una, la prima che hanno fatto, dite la seconda. Se l'hanno fatto una semestre fa. non lì, non 6 mesi fa, lì non l'hanno fatta 6 mesi fa, l'hanno fatta ai blindati. Vabbè, sempre la pina, sempre hai bisogno. Non lo so che ci sono, anche se sono altri. Ma va, chissà, tanto ti passerà a torre. Ma quando venire lì si va a una sopralievo. Anche ti credi sia in barca. Eppure non l'anima è Udi. Oh, guarda lì. Ma quando vedi si fa solo la compagnia con il sacco pure. Che? Ma vai che ci danno dei vini manco, ci li puoi vini. Quelli lì che si scappa la vita, quelli lì. Sì, la vita tocca un milione di barombo. E c'hanno una preparazione militare quelli, hanno fatto un assalto di tipo militare, hanno fatto. Quelli lì è gente preparata e... Cazzo, ma lo è, già la ciappi domani io. Come te la ciappa di ributti? Che si ne hanno fatto due di rapini e non si è più intesi. Ma a cosa non hanno venuto di dinami? Se non la vuoi d'ora, eh? Apprereva. Oh, vi lascio aperta che ci sarà qualcuno dentro lì, per carità. Per forza c'è qualcuno lì che sa tutti i movimenti. Chi c'è poco ma sicuro. Cazzo, non hai visto quello scavatore, sono andati subito a quel punto lì per sfondare il muro. Cazzo, già abbiamo gli altri punto. Figurati. Cazzo, già abbiamo tutto, tutto per discutiare, dove era la situazione. Cazzo. Il cavatore con un macete, un brucchio, cazzo, a prelevare i sacchi, cazzo, così si deve fare un furgone. Se non è tagliato un detto dal furgone, ma fa calare i sacchi. E avevo visto a quello lì che lascia pagare lo scavatore. Tira, tira, tira, tira, manda, manda, manda. Allora, manda calce. E da calce mi si apre i sacchi della brutta. Ecco. Cazzo, ma se ne vuole male il gatto neva, chissà, com'è? Chi ci sono bevendo champagne e contenti tutti di dinà? Ah, va, sì, si traccani. Ma cosa ha contato chi si dà? Mi che viene voi? Se non hanno questa macchinetta che vi conta, e chi dà la canzona? Cazzo, pensa a lui, va a parlare con suo madre. Vai, to. Quanti erano? 20. Se ne hanno inviato 20 milioni, mi tocca un milione a pezza. Pochi so. Ah, oh, che lui non sa chi si dice. Se sono spendaccioli, è ancora poco. Ma se spendono, poi lo vengono anche a scoprire, secondo come spendono. Fanno una vita da spendaccioli a ciappani subito giù. Si hanno appigliato le macchine di lusso e comprano già i vestiti di lusso, fanno viaggi, è normale che li beccano subito. E se ne piazza? È il primo, faccia fare. Ci hanno bigliato. Cazzo, dite, io che non so cavaliere, cazzo, in Ferrari, i ghidi, i limousini, e l'altro in campo, cazzo, e hanno bigliato, che dirà. Chi se l'ho fatto? Quello lì è il fatto. Cazzo, a me mi bastava, cazzo, guarda, anche 10 milioni di euro mi bastava. Che fatto? No, già ho toccato di quella tappeccia. Lo so, erano i truppi, però la gente ci voleva fare qualcosa, ma poi andare in due. Pigliati Rani, bisogna vedere come ti invadono, se li hanno divisi subito, se li aspettano a dividerli. Ecco cos'è. Ma a me chi su quel cavalore mi baria gatto, chi ci assomigliava a Tore, gatto, cosa hanno detto Manoè? A me mi pare sì, ma è incappucciato lui, dai. Ma chi su sì, se non lo conosci, però la corporatura mi baria è un gatto, ma stanno correndo di cavadori. Ah, boh, io non riconosco, non la gioco con l'uscita. Cosa hanno detto, Manuel? A me mi pare cazzo che l'adore, cazzo, con i cavadori. Lo scopriamo subito, se cambia macchina, c'è la baracchina, tutta là che si muove la direttiva, voi che è tu? Buffa! Buffa! Se si porta per qualcosa, si porta. Cazzo, secondo me è andata nella gabbia, io. Ma lo devo fare anche per un filo che sono tirato. È che mi devi mettere le graffe e le cose lì. Quel cazzo di nastro. Una macchina devo chiamare per farlo fare, con la scala non si può, con la scala aerea lo devo far fare. Ecco cos'è. Far salire un antennista, tirare il cavo e mettere piano piano, mettergli le fascette. E le fascette di me, che cazzo di altri gusta? Si dice 100 euro all'ora vogliono. Un'oretta ha fatto tutti. E due secondi fa che ti pagano 150-200 euro. Non penso, no. Cosa io ho chiesto a quello del coso, mi ha detto, dice, c'è un'oretta con 100 euro, te dici. L'antennista, 100 euro, c'è 200 euro. Non lo so, vabbè dai, il vostro la luce, vabbè il vostro... un po' di televisione e mi circuito, che domani me ne devo alzare alle 5, tanto per andare in bellezza la giornata. Vabbè, ciao Tore, ciao Natalino, ce la riascoltiamo, dai, buona continuazione di serata, vai tu. Ok, ciao Manuel, se devi fare lavorare, buon lavoro, vai. Sono gente alle prossime, ok, ciao, a parte Natale. Ciao Manuel, ciao, buon riposo e buon inizio di giornata per domani. Ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata, avanti Tore. Aspetta se c'è, volevo sapere se c'era Gian Maria nel 23, non so cos'è Inoghi a Cuffenni. Gian Maria, ci sei qua? No, Inoghi non vede. Aspetta che vado un attimino sul 23 a vedere. Passano sul 23, Natalia. Sì, passo lì, intanto se qua non c'è nessuno, dai.